Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di statistiche, parliamo d'Italia con un libro che già dal titolo è tutto un programma e si intitola Ultimi, così le statistiche condannano l'Italia. L'autore è Antonio Gardo. Buonasera Antonio Gardo. Buonasera. Antonio Gardo è un giornalista, una lunga esperienza professionale, iniziata a Panorama, continuata collaborando con Enzo Biagi in televisione e poi adesso scrive per molti quotidiani, ha scritto per quasi tutti i quotidiani italiani, così scrive nella sua autobiografia, però dice anche che gli piace più la radio che la televisione, di questo lo ringraziamo, e negli ultimi tempi si è dedicato molto alla lotta agli sprechi, ha un sito internet che si chiama Non Sprecare, ha scritto anche un libro Non Sprecare, tra l'altro è stata ospite nella nostra trasmissione alcuni anni fa quando è uscito questo libro, e adesso si è dedicato a guardare un po' di traverso alle statistiche italiane, scoprendo una realtà abbastanza disarmante. Perché disarmante questa realtà, Antonio Gardo? Ma direi che è una realtà disarmante da un lato perché ci dimostra che negli ultimi 30 anni l'Italia non ha fatto altro che andare indietro in tutti i settori, parlo della formazione scolastica, universitaria, della ricerca, parlo degli investimenti pubblici e privati. Ahimè siamo migliorati, progrediti, siamo arrivati ai primi posti delle classifiche soltanto in quelle peggiori, corruzione e pressione fiscale. Però questo è anche un libro che ha un messaggio di ottimismo, perché è un libro dove ci sono per ognuno di questi gironi che ho attraversato storie di modelli che funzionano, che non sono a Singapore, sono sempre in Italia. Il problema è avvicinarci a questi modelli. Ecco, sono modelli però un po' a macchia di leopardo, sono situazioni di eccellenza in tutti i settori, dagli asili nido, tu fai gli esempi degli asili nido di Reggio Emilia, all'istruzione, all'università, appunto alla ricerca, però appunto sono modelli chiusi, che non riescono a fare sistema, che non riescono a diventare una realtà che coinvolge un po' tutto il paese, così Antonio Gardo? Qui ci siamo fermati e qui siamo precipitati. Questi modelli che riguardano le scuole, l'università, la giustizia, ci dicono soltanto una cosa, che l'Italia è diventato un paese ingiusto, perché chi ha accesso alle informazioni, chi ha accesso alle relazioni, sa bene dove mettere un figlio a scuola, in quale università iscriversi o in quale ospedale fare un ricovero. Chi non ha questi elementi, fa una puntata al tavolo della roulette, ti può andare bene ma ti può andare malissimo. Ecco l'Italia ingiusta che abbiamo costruito in questi anni ed ecco la grande battaglia che dobbiamo fare per avvicinare tutto il paese a quelle che tu chiami le macchie di leopardo, in realtà sono tante, molto più al nord che al sud, ahimè, ma ti sembra possibile che in Italia, se nasci in una regione meridionale, hai 300 volte probabilità in più di diventare povero rispetto a chi nasce in una regione del nord? Un paese così sconnesso non ha un grande futuro. Ecco, un paese basato molto sulle relazioni, basato molto anche sulla forza d'inerzia. È difficile un po' cambiare il corso degli eventi. Per esempio nelle imprese, tu metti in risalto il fatto che piccolo non è più bello, ma le imprese italiane sono ancora piccole, stentano ad aggregarsi, stentano a fare quel passaggio generazionale che dovrebbe essere fatto con più coraggio anche attraverso fusioni e acquisizioni con altre imprese. C'è un po' un guardare con gli occhi nel breve periodo al proprio piccolo privato che non guardare al lungo periodo e alla società nel suo complesso, Antonio Gardo. Secondo me gli imprenditori ancora non hanno ben realizzato quello che ormai ha colpito nelle sue parole la Banca d'Italia, ovvero sia che piccolo non è più bello, nel senso è finito quel ciclo, è finita quell'epoca, siamo in presenza di una crisi dalla lunga portata e siamo in presenza di un altro paradigma dei modelli di sviluppo. Oggi le dimensioni possono fare la differenza. Pensate che soltanto il 12% delle aziende più piccole, che nel 1987 avevano meno di 6 addetti, hanno superato la soglia dei 10 addetti nel 2001. Cioè in 25 anni il mondo è cambiato, ma le imprese sono rimaste su dimensioni con le quali non si può fare ricerca come serve, non si può fare esportazione come serve, non si può fare innovazione come serve. C'è da dire però anche che la mano pubblica in questo non dà un grande aiuto, perché la mano pubblica dovrebbe in qualche modo accompagnare questo processo, non solo con dei vantaggi fiscali per chi si aggrega, ma per esempio dando maggiore trasparenza al mercato dei capitali. La borsa italiana, dove potrebbero approdare tante imprese crescendo in questo modo, è veramente il regno, è coperta da un'area di opacità, primo è dominata dalle banche e questo evidentemente la condiziona, e secondo è oscurata da una sorta di insider trading che aleggia in questo mondo, anche perché, come dire, gli organi di controllo, nel libro Ultimi metto tutte le statistiche e i confronti internazionali, fanno pochissimo il loro lavoro. So di dire una cosa forte, ma mi assumo la responsabilità di quello che ho visto e documentato nel libro. Eppure, appunto, dici nel libro che gli italiani sono dei grandi creatori di imprese, sono tante le imprese che nascono, e in fondo tutte le imprese nascono piccole, anche la Apple, lo scrivi nel libro, che oggi vale più dell'intera borsa di Milano, è appunto nata come impresa piccola, ma le nostre restano nane e sottocapitalizzate, 2 su 3 hanno un capitale inferiore ai 5.000 euro, eppure i soldi ci sono, il risparmio c'è, ma si ferma, scrivi, sotto il materasso. Come mai c'è questa contraddizione anche? Si creano tante imprese, ma poi gran parte di queste imprese falliscono e altre restano piccole. Beh, anche noi quando abbiamo fatto la crescita per aggregazione siamo diventati dei giganti. Il caso che racconto nel libro è il caso di Luxottica, che è un modello di che cosa significa crescere e seguire le dimensioni. I 3.500 miliardi di ricchezza finanziaria che gli italiani hanno nei conti correnti, nelle poste e perfino sotto il materasso, ahimè, non vanno a bagnare il mare delle imprese, non c'è questo collegamento, mentre in America è normale che un risparmiatore abbia delle azioni di società quotate e stacchi il dividendo ogni anno con il quale magari si fa la sua brava vacanza, in Italia questo non succede. Allora dobbiamo porci la domanda: perché non succede? Perché non c'è una relazione tra il risparmio privato, del quale siamo record, abbiamo dei record mondiali, e invece l'affanno delle imprese che devono sempre ricorrere al credito bancario e non sempre in condizioni di trasparenza. Per quello che ho accennato prima, ovvero sia il risparmiatore, per essere incentivato a investire nelle aziende, a investire in borsa, deve essere tutelato e protetto in termini di trasparenza del mercato. E che razza di trasparenza c'è laddove una Consob che nel 2014 ha notificato 140 provvedimenti di infrazione, incassando 20 milioni di euro di multe? Nello stesso anno la società equivalente della Consob in America ha concluso 755 procedimenti con un incasso di 4,1 miliardi di dollari e l'autorità francese ha incassato 3,3 miliardi di euro. Scusatemi, questi numeri non vi fanno riflettere su qualcosa che non funziona in questo meccanismo? Beh, qualcuno potrebbe pensare che in fondo gli italiani sono più seri, sono più onesti, sono più trasparenti, ma forse... Beh, questo però sarebbe in contraddizione con il record che abbiamo nelle statistiche sulla corruzione, cioè magari fosse così, purtroppo questo è un elemento che ci è stato sottolineato anche qui dalla Banca d'Italia, dalle varie relazioni della Corte dei Conti, questo è un altro elemento di deriva del paese. L'illegalità in Italia è diventata troppo diffusa, non è più fisiologica ma patologica, in un paese dove un appalto su 3 è truccato, in un paese dove, lo ha detto pochi giorni fa Raffaele Cantone parlando come presidente dell'autorità anticorruzione, il 30% delle ASL sono al centro di fatti di corruzione, e la cosa ancora più grave è che quasi l'80% dei dirigenti delle ASL ne sono consapevoli, cioè in Italia si ruba nella consapevolezza di poter rubare, anche perché grazie alla prescrizione, 130.000 processi prescritti in un anno, e grazie ai tempi biblici dei procedimenti civili, beh, chi ruba in Italia ha ottime possibilità di farla franca. Beh, c'è anche qualcuno che ha rubato a propria insaputa e quindi possiamo anche perdonarlo, però questa esatto. È solo una battuta. Però c'è qualche primato, lo metti in risalto nel libro. Noi abbiamo il record mondiale di slot machine, una ogni 143 abitanti, nemmeno a Las Vegas ce ne sono così tante. Anche questo è forse un esempio di un paese che cerca altre soddisfazioni e altre fughe rispetto alla realtà. Però in fondo nel libro quello che dici è anche, mettiamo in risalto, magari anche con fermezza e con brutalità, queste realtà, perché informarsi vuol dire fare già un passo in avanti per risolvere questi problemi. Possiamo avere un po' di fiducia in questa prospettiva? Diceva che i numeri sono il primo strumento del buon governo, quindi conoscere i numeri significa poi poter adottare le misure giuste. Certo, dobbiamo avere ottimismo e dobbiamo avere, il libro lo racconta questo, la consapevolezza di potercela fare. Potrei dire che il sottotitolo corretto è Ultimi ma con tutte le possibilità per diventare primi. Certo. C'è molta strada da fare e quel dato che hai dato, che hai appena raccontato, di una slot machine ogni 143 abitanti, record mondiale, beh, è un dato che ti dà il senso di un paese un po' smarrito, dove ormai va di moda tentarla con il gratta e vinci, come certo. Se fosse l'occasione della propria vita. Certo, e questo è forse anche un esempio, potremmo dire, tornando a quanto dicevo all'inizio, di un'Italia il cui panorama è un po' disarmante sulla questa realtà sociale. Però volevo far notare anche in questo libro che c'è anche nella parte finale tutta una serie di riferimenti, di link, di indirizzi dove si possono trovare degli approfondimenti per tutti i punti trattati nelle 118 pagine di questo libro e quindi su tutti i fronti, sul fronte della sanità, sul fronte dell'istruzione, sul fronte delle imprese, sul fronte della corruzione. C'è questo libro di Antonio Galdo che è molto approfondito, molto ricco di dati, ma c'è un'ulteriore possibilità in molte pagine in cui ci sono altri rimandi per chi vuole, come forse è doveroso, approfondire questi elementi. Grazie Antonio Galdo. Grazie a voi. Ricordo, autore del libro Ultimi, così le statistiche condannano l'Italia, edito da Einaudi, sono 118 pagine per 16 euro. Grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.